Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Primo giorno, vespri, dove si visita il resto dell'abbazia. Guglielmo trae alcune conclusioni sulla morte di Adelmo. Si parla col fratello vetraio di vetri per leggere e di fantasmi per chi vuol leggere troppo. A quel punto suonarono per vespro e i monaci si accinsero a lasciare i loro tavoli, ma la chia ci fece capire che anche noi dovevamo andare. Scendemmo, mentre i monaci si avviavano verso il coro. Il mio maestro decise che il Signore ci avrebbe perdonato se non avessimo assistito all'ufficio divino. Il Signore ebbe molto a perdonarci nei giorni seguenti e mi propose di camminare un poco con lui per il pianoro affinché ci familiarizzassimo con il luogo. Uscimmo dalle cucine e attraversammo il cimitero. V'erano pietre tombali più recenti e altre che recavano i segni del tempo, raccontando vite di monaci vissuti nei secoli passati. Le tombe erano senza nome, sormontate da croci di pietra. Là, dove il muro orientale piegava verso meridione, all'angolo della cinta, v'era l'edificio delle fucine. Gli ultimi fabbri stavano riponendo i loro attrezzi e spegnendo i mantici per avviarsi all'ufficio divino. Guglielmo si mosse con curiosità verso una parte delle fucine, quasi separata dal resto del laboratorio, dove un monaco stava riponendo le proprie cose. Davanti a lui stava un reliquiario ancora incompiuto, di cui esisteva solo la carcassa in argento, ma sulla quale egli stava evidentemente incastonando vetri e altre pietre. Conoscemmo così Nicola da Morimondo, maestro vetraio dell'abbazia. Ci spiegò che nella parte posteriore della fucina si soffiava anche vetro, mentre in quella anteriore, dove stavano i fabbri, si fissavano vetri ai piombi di riunione per farne vetrate. Ma, aggiunse, la grande opera vetraria che abbelliva la chiesa e l'edificio era già stata compiuta almeno 2 secoli addietro. Ora ci si limitava a lavori minori o alla riparazione dei guasti del tempo. «E con gran fatica», aggiunse, «perché non si riesce più a trovare i colori di un tempo, specie il blu, che potete ancora ammirare nel coro, di una qualità così limpida che a sole alto riversa nella navata una luce di paradiso. I vetri della parte occidentale della navata, rifatti non molto tempo fa, non sono della stessa qualità e lo si vede nei giorni estivi. È inutile», soggiunse, «non abbiamo più la saggezza degli antichi. È finita l'epoca dei giganti». «Siamo nani», ammise Guglielmo, «ma nani che stanno sulle spalle di quei giganti. E nella nostra pochezza riusciamo talora a vedere più lontano di loro sull'orizzonte. Ho visto in vari paesi opere nuove fatte col vetro che ci fanno pensare a un mondo di domani in cui il vetro non sia solo al servizio degli uffici divini, ma anche aiuto alla debolezza dell'uomo. Ti voglio mostrare un'opera dei nostri giorni di cui mi onoro di possedere un utilissimo esemplare». Mise le mani nel saio e ne trasse le sue lenti che lasciarono stupito il nostro interlocutore. Nicola prese la forcella che Guglielmo gli porgeva con grande interesse. «Oculi de vitro cum capsula!» esclamò. «Ne avevo udito parlare da un certo fra Giordano che conobbi a Pisa. Diceva che non erano passati 20 anni da che erano stati inventati, ma parlai con lui più di 20 anni fa. «Che meraviglia!» continuava Nicola. «Eppure molti parlerebbero di stregoneria e manipolazione diabolica». «Puoi certo parlare per queste cose di magia», acconsentì Guglielmo. «Ma vi sono 2 forme di magia. C'è una magia che è opera del diavolo e che mira alla rovina dell'uomo attraverso artifici di cui non è lecito parlare. Ma c'è una magia che è opera divina, là dove la scienza di Dio si manifesta attraverso la scienza dell'uomo che serve a trasformare la natura e uno dei cui fini e prolungare la vita stessa dell'uomo. E questa è magia santa, a cui i sapienti dovranno sempre più dedicarsi, non solo per scoprire cose nuove, ma per riscoprire tanti segreti di natura che la sapienza divina aveva rivelato agli ebrei, ai greci, ad altri popoli antichi e persino oggi agli infedeli. E non ti dico quante cose meravigliose di ottica e scienza della visione vi siano nei libri degli infedeli. E di tutte queste conoscenze, una scienza cristiana dovrà reimpossessarsi e riprenderla ai pagani e agli infedeli tanquam ab injustis possessoribus. Come, se non essi, ma solo noi, avessimo diritto a questi tesori di verità. Si fanno oggi macchine prodigiose, con cui si può dirigere il corso della natura, ma guai se esse cadessero nelle mani di uomini che le usassero per estendere il loro potere terreno. Mi dicono che nel cataio un saggio ha miscelato una polvere che può produrre a contatto col fuoco un grande rombo e una gran fiamma, distruggendo tutte le cose per braccia e braccia intorno. Mirabile artificio, se venisse usato per deviare il corso dei fiumi o frantumare la roccia, là dove vi sia da dissodare il terreno. Ma se qualcuno la usasse per recare nocumento ai propri nemici? Forse sarebbe bene se fossero i nemici del popolo di Dio, disse devotamente Nicola. Forse, ammise Guglielmo, ma chi è oggi il nemico del popolo di Dio? Ludovico Imperatore o Giovanni Papa? Oh mio signore, disse tutto spaventato Nicola, non vorrei proprio decidere da solo una cosa tanto dolorosa. Vedi, disse Guglielmo, talora è bene che certi segreti restino ancora coperti da discorsi occulti, il che non vuol dire che i segreti non debbano essere svelati, ma che compete ai sapienti decidere quando e come. Per cui è bene che in luoghi come questo, disse Nicola, non tutti i libri siano alla portata di tutti. Questa è un'altra storia, disse Guglielmo. Si può peccare per eccesso di loquacità e per eccesso di reticenza. Io non volevo dire che occorre nascondere le fonti della scienza. L'amabile conversazione col mio maestro doveva aver posto Nicola in vena di confidenze. Pertanto ammiccò a Guglielmo, come a dire, io e te ci intendiamo perché parliamo delle stesse cose. E alluse, però laggiù, e accennò all'edificio, i segreti della scienza sono ben difesi da opere di magia. Sì, disse Guglielmo ostentando indifferenza, porte sbarrate, divieti severi, minacce, immagino. Oh no, di più. Cosa, per esempio? Ecco, io non so con esattezza, io mi occupo di vetri, non di libri, ma nell'abbazia circolano storie strane. Di che genere? Strane, diciamo, di un monaco che nottetempo ha voluto avventurarsi in biblioteca e ha visto per magia serpenti, uomini senza testa e uomini con due teste. Per poco non usciva pazzo dal labirinto. Perché parli di magia e non di apparizioni diaboliche? Perché anche se sono un povero maestro vetraio non sono così sprovveduto. Il diavolo, Dio ci salvi, non tenta un monaco con serpenti e uomini bicefali, semmai con visioni lascive come coi padri del deserto. E poi, se è male leggere certi libri, perché il diavolo dovrebbe impedire a un monaco di farlo? Mi sembra un buon entimema, ammise il mio maestro. Nicola ristette perplesso e inquieto. Dio ci protegga. È tardi. Vespro è già iniziato. Addio. E si diresse verso la chiesa. Proseguimmo lungo il lato sud, a destra l'albergo dei pellegrini e la sala capitolare col giardino, a sinistra i frantoi, il mulino, i granai, le cantine e la casa dei novizi, e tutti che si affrettavano verso la chiesa. «Cosa pensate di quello che ha detto Nicola?» chiesi. «Non so. Nella biblioteca accade qualcosa e non credo siano le anime dei bibliotecari trapassati. Il nostro delitto ha a che fare con questa storia?» «Delitto?» Più ci penso, più mi convinco che Adelmo si è ucciso. E perché? Pensa se non sia più, come dire, meno dispendioso per la nostra mente pensare che Adelmo, per ragioni ancora da appurare, si sia gettato sponte sua dal parapetto del muro, sia rimbalzato sulle rocce e, morto o ferito che fosse, sia precipitato nello strame. Poi, la frana dovuta all'uragano di quella sera ha fatto scivolare e lo strame e parte del terreno e il corpo del poveretto sotto il torrione orientale. Perché dite che è una soluzione meno dispendiosa per la nostra mente? Caro Azzo, non occorre moltiplicare le spiegazioni e le cause senza che se ne abbia una stretta necessità. Se Adelmo è caduto dal torrione orientale, bisogna che sia penetrato in biblioteca, che qualcuno lo abbia colpito prima perché non opponesse resistenza, che abbia trovato il modo di salire con un corpo esanime sulle spalle fino alla finestra, che l'abbia aperto e abbia precipitato giù lo sciagurato. Con la mia ipotesi ci bastano invece Adelmo, la sua volontà e una frana. Tutto si spiega utilizzando un minor numero di cause. Ma perché si sarebbe ucciso? Ma perché lo avrebbero ucciso? In ogni caso, occorre trovare delle ragioni e che ce ne siano mi sembra indubbio. Nell'edificio si respira aria di reticenza. Tutti ci tacciono qualcosa. Per intanto abbiamo già raccolto alcune insinuazioni, assai vaghe in verità, su qualche strano rapporto che intercorreva tra Adelmo e Berengario. Vuol dire che terremo d'occhio l'aiuto bibliotecario. Mentre così si parlava, l'ufficio dei Vespri era terminato. I servi tornavano alle loro mansioni prima di ritirarsi per la cena. I monaci si avviavano al refettorio. Il cielo era ormai buio e stava iniziando a nevicare. Era una neve leggera, a piccoli fiocchi soffici, che avrebbe continuato, credo, per gran parte della notte, perché il mattino seguente tutto il pianoro sarebbe stato coperto da una coltre candida, come dirò. Io avevo fame e accolsi con sollievo l'idea di andare a mensa. Primo giorno con Pieta, dove Guglielmo e Azzo godono della lieta ospitalità dell'abate e della corrucciata conversazione di Jorge. Il refettorio era illuminato da grandi torce. I monaci sedevano lungo una fila di tavole dominata dal tavolo dell'abate, posto perpendicolarmente a essi, su una vasta pedana. Dalla parte opposta a un pulpito, su cui aveva già preso posto il monaco che avrebbe fatto la lettura durante la cena. L'abate ci attendeva presso una fontanella con un panno bianco per asciugarci le mani dopo il lavabo, giusta ai consigli antichissimi di San Pacomio. L'abate invitò Guglielmo alla sua tavola e disse che per quella sera, dato che ero anch'io ospite fresco, avrei goduto dello stesso privilegio, anche se ero un novizio benedettino. I giorni seguenti, mi disse paternamente, avrei potuto sedermi a tavola coi monaci o, se il mio maestro mi avesse affidato qualche incarico, passare prima o dopo i pasti in cucina, dove i cuochi si sarebbero presi cura di me. I monaci stavano ora in piedi ai tavoli, immobili col cappuccio abbassato sul viso e le mani sotto lo scapolare. L'abate si appressò alla sua tavola e pronunciò il Benedicite. Il cantore dal pulpito intonò Eden Pauperes. L'abate diede la sua benedizione e ciascuno si sedette. La regola del nostro fondatore prevede un desinare assai parco, ma lascia all'abate decidere di quanto cibo abbiano effettivamente bisogno i monaci. D'altra parte, oramai nelle nostre abbazie si indulge maggiormente ai piaceri della tavola. Non parlo di quelle che, purtroppo, si sono trasformate in covi di ghiottoni, ma anche quelle ispirate a criteri di penitenza e di virtù, forniscono ai monaci, intenti quasi sempre a gravosi lavori dell'intelletto, un nutrimento non molle, ma robusto. D'altro canto, la mensa dell'abate è sempre privilegiata, anche perché, non di rado, vi seggono degli ospiti di riguardo e le abbazie sono orgogliose dei prodotti della loro terra e delle loro stalle e della perizia dei loro cucinieri. Il pasto dei monaci si svolse in silenzio, come di costume, gli uni comunicando agli altri con il nostro consueto alfabeto delle dita. Alla tavola dell'abate sedevano con noi Malachia, il cellario e i due monaci più anziani, Jorge da Burgos, il vegliardo cieco che avevo già conosciuto nello scriptorium, e il vecchissimo Alinardo da Grotta Ferrata, quasi centenario, claudicante ed aspetto fragile, e mi parve assente di spirito. Mangiamo carne allo spiedo dei maiali appena uccisi e mi avvidi che, per altri cibi, non si usava grasso di animali né olio di ravizzone, ma del buon olio d'oliva che veniva da terreni che l'abbazia possedeva a piedi del monte verso il mare. L'abate ci fece gustare, riservato alla sua mensa, quel pollo che avevo visto preparare in cucina. Notai che, cosa assai rara, egli disponeva anche di una forchetta di metallo che nella forma mi ricordava le lenti del mio maestro. Uomo di nobile estrazione, il nostro ospite non voleva lordarsi le mani col cibo e ci offrì anzi il suo strumento almeno per prendere le carni dal piatto grande e porle nelle nostre ciotole. Finita la cena, i monaci si disposero ad avviarsi al coro per l'ufficio di Compieta, si calarono di nuovo il cappuccio sul viso e si allinearono davanti alla porta in stazione. Poi si mossero in lunga fila attraversando il cimitero ed entrando nel coro dal portale settentrionale. Ci avviammo con l'abate. «A quest'ora si chiudono le porte dell'edificio?» domandò Guglielmo. «Appena i servi avranno pulito il refettorio e le cucine, il bibliotecario stesso chiuderà tutte le porte sprangandole dall'interno». «Dall'interno? E lui da dove esce?» L'abate si rabbuiò. «Certo non dorme in cucina», disse bruscamente e affrettò il passo. «Bene, bene», mi sussurrò Guglielmo. «Dunque esiste un'altra entrata, ma noi non la dobbiamo conoscere». Io sorrisi tutto fiero della sua deduzione ed egli mi rimbrottò. «E non ridere! Hai visto che entro queste mura il riso non gode di buona reputazione?» Entrammo nel coro. Una sola lampada ardeva su un robusto tripode di bronzo, alto come due uomini. I monaci si posero negli stalli in silenzio, mentre il lettore leggeva un passaggio di una omelia di San Gregorio. «Tieni d'occhio quel punto», mi disse Guglielmo. «Potrebbe esserci un passaggio che porta all'edificio». «Sotto il cimitero?» «E perché no? Anzi, ripensandoci, ci dovrà essere da qualche parte un ossario. È impossibile che da secoli seppelliscano tutti i monaci in quel lembo di terra». «Ma volete veramente entrare di notte in biblioteca?» domandai atterrito. «Dove ci sono i monaci defunti e i serpenti e le luci misteriose, mio Bonazzo?» «No, ragazzo, ci pensavo oggi e non per curiosità, ma perché mi ponevo il problema di come fosse morto Adelmo. Ora, come ti ho detto, propendo per una spiegazione più logica e, tutto sommato, vorrei rispettare le usanze di questo luogo». «Allora perché volete sapere?» «Perché la scienza non consiste solo nel sapere quello che si deve o si può fare, ma anche nel sapere quello che si potrebbe fare e che magari non si deve fare».